Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Riprendiamo allora gli appuntamenti anche con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, un po' di pausa che è coincisa nei giorni appunto tra dicembre e gennaio anche con un tema economico che riguarda le nostre tasche, cioè l'avvio dei saldi invernali. Ben trovato, ben ritrovato e buon anno anche a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico. Ciao Carlo. Ciao Mirko e buon anno a tutti gli ascoltatori. Allora, i saldi sono partiti, mi pare insomma siano partiti abbastanza al rallentatore, per non dire quasi indietro rispetto agli anni scorsi. Sì, come ogni anno noi dell'Adico abbiamo sempre la tendenza a fare un censimento un po' su quello che è l'andamento dei saldi nei giorni. E quest'anno in particolar modo rispetto agli anni precedenti abbiamo notato come c'è stato un grande movimento, ma anche questo non ha coinciso assolutamente con buoni affari e a nostro avviso questo trend si protrarrà tutta la durata di questa stagione, perché come sappiamo ormai di tredicesima c'è rimasta ben poco e quando si arriva ai primi di gennaio la disponibilità finanziaria delle famiglie è ridotta ormai all'osso. Avete anche quantificato, perché le stime nei giorni precedenti andavano da quelle dei negozianti a quelle di associazioni di consumatori, insomma, che dicevano, stimavano un volume di affari diciamo per famiglia molto diverso, insomma si andava dai 350 euro come punta dei commercianti fino ai 200 anche meno stimate dai consumatori. Voi cosa dite? Sì, allora se noi avevamo un dato di paragone con quello che è stata l'ultima stagione dei saldi dell'estate 2012, dove c'è una spesa budget media persona di circa 200 euro, quest'anno è emerso che il budget si è ridotto di circa il 20%, attestandosi su un importo di circa 150 euro. Però emerge come in questa indagine che abbiamo fatto il 45% del nostro campione ha dichiarato che non comprerà nulla o al massimo spenderà per un acquisto un importo non superiore ai 30 euro, quindi c'è sicuramente un dato significativo che ci dà anche la reale percezione di quello che è la situazione in cui le famiglie in questa situazione o le persone stanno versando. E questo poco budget come viene speso? Cioè cosa si compra? Praticamente dall'indagine è emerso come l'interesse sia ridotto, il 41% l'abbigliamento, il 23% calzature e accessori, il 32% articoli per bambini, con particolare attenzione all'abbigliamento e anche all'arredamento per la cameretta e gli accessori per neonati, un 4% l'intimo. Per quanto riguarda la cifra invece, il 55% di chi ha già acquistato o ha intenzione di farlo spenderà tra i 100 e i 200 euro, il 21% solamente ha dichiarato di spendere oltre 300 euro, ben uno su quattro non spenderà più di 100 euro e questo è un dato che è aumentato del 10% rispetto al 2011. Allora, si spende meno perché certamente, dicevi, ci sono meno soldi, le tasse, tutte le scadenze di dicembre hanno esaurito ed eroso completamente il budget, oppure lancio un'altra interpretazione, si compra meno perché ci si accontenta di quello che si ha. Sì, ci si accontenta sicuramente di quello che si ha, però è anche una conseguenza del fatto che le famiglie hanno ridotto all'indispensabile e alle prime necessità quello che sono un po' le esigenze che le persone hanno e che hanno rinviato ai saldi l'occasione per fare gli acquisti. È anche vero che il fenomeno comunque è stato molto influenzato da tutta una serie di strategie che comunque anche i commercianti applicano per anticipare quello che è una data uguale per tutti, pensiamo ai messaggi che le persone ricevono per i telefonini, alle mail, alle offerte di un tipo rispetto di un altro, tra le svuota tutto o cambio merce e quant'altro, tutte espedienti che i commercianti utilizzano un po' per anticipare quella che è la data, perché ormai hanno capito che chi prima arriva, prima cattura il cliente e prima fa l'affare. La nostra proposta invece sarebbe quella di cominciare a valutare seriamente di anticipare addirittura l'8 dicembre per permettere così alle persone di destinare più risorse e magari poterli utilizzare anche per fare dei regali utili a Natale. Poi per quanto riguarda l'interpretazione che noi diamo di questa indagine, certamente che è un chiaro focus di quella che è la reale situazione in cui le famiglie e le persone in questa situazione si trovano, dove sostanzialmente per effetto di tante finanziarie, per effetto di quello che è stato un po' tutto lo stipendio, la tredicesima già anticipatamente destinata per una cosa o per l'altra, o l'ultimo per l'IMU, certamente le risorse quest'anno sono rimaste veramente poche da poter destinare. E per i pochi appunto che abbiamo visto hanno approfittato in questi primi giorni di saldi, o magari penseranno di farlo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, valgono sempre le consuete indicazioni per approcciare appunto questa modalità di acquisto. Certo, noi sappiamo che il rischio dei saldi è quello di vedersi rifilare sempre dei prodotti non di stagione dell'ultimo anno, ma magari degli avanzi dell'anno precedente, o di vedersi degli sconti che non sono reali e magari per effetto di quelli che sono stati dei prezzi toccati all'insù, poi in realtà si rischia di pagare un valore che non è realmente scontato come il consumatore crede. Pertanto i consigli è quello di confrontare sempre il prezzo del prodotto scelto prima e dopo l'avvio della campagna dei saldi, verificare che il prodotto esposto in vetrina e quello che viene offerto in negozio coincidano, perché molte volte ci sono prodotti che vengono proposti in vetrina ma poi che non troviamo dentro e ci rischiamo di accontentarci. È sempre buona norma conservare lo scontrino fiscale per far valere il diritto della garanzia o del cambio della merce nel caso che questo sia difettoso, controllare l'etichetta, confrontare le offerte, diffidare degli sconti superiori al 60%, e ricordiamo che è obbligo del venditore accettare forme di pagamento quali carta di credito o bancomat. Ecco, insomma, le indicazioni che ripetiamo praticamente ogni anno, ma che è bene sottolineare un'altra volta. Allora, buoni saldi per chi vorrà approfittarne, magari poco, appunto, come è emerso da questa vostra indagine. Tra due giorni, così per rallegrare, tra virgolette, la situazione, parleremo di Tares, di Tobin Tax e di tutte le nuove o rinnovate tasse che ci aspettano in questo 2013. Grazie Carlo, appuntamento fra due giorni. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.